Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Di che cosa parleremo oggi? Allora, inizieremo dalla questione della legge che è stata approvata ieri, che è stata definita il Jobs Act degli autonomi. Che cos'è? È una legge che è stata approvata in via definitiva, anzi in realtà sono due cose distinte. C'è una parte normativa e previdenziale dedicata espressamente ai lavoratori autonomi, che estende le tutele per i lavoratori autonomi e alcune tutele previste per i lavoratori dipendenti, o mira ad estenderle, poi bisognerà vedere quale sarà l'applicazione pratica. Di certo è un'operazione che dal punto di vista anche banalmente culturale è importante, perché molto si è parlato in questi anni, anche in questi ultimi anni, di lavoratori dipendenti. Molte operazioni sono state rivolte esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pensate solamente al bonus di 80 euro. Ebbene, arriva finalmente qualcosa che cerca di rimettere ordine in questo mondo, quantomeno dal punto di vista normativo. Dall'altra parte c'è la normativa, e qua è un aspetto diverso, sul cosiddetto lavoro agile o lo smart working, ossia una quasi totale equiparazione tra la possibilità di lavorare in ufficio e la possibilità di lavorare fuori, ma non con il telelavoro e quindi con le postazioni fisse, con quei limiti che eravamo abituati a conoscere, bensì in una modalità per la quale puoi lavorare sostanzialmente da dove ti pare. Esempio stupido: se avete un lavoro da fare, un lavoro da compiere e potete farlo dal parco con il wifi, lo potete fare, almeno in teoria, previ accordi naturalmente con l'azienda, e un ovvio, per così dire, controllo da parte del datore di lavoro da una parte. Dall'altra parte c'è qualche dubbio per le aziende, che riguarda soprattutto i controlli su eventuali infortuni, cioè la possibilità che la questione degli infortuni venga estesa in maniera eccessiva rispetto al controllo che si può avere all'interno del luogo di lavoro. Questo il primo punto, perché l'abbiamo accennato solamente ieri, poi appunto non c'è stato il tempo. Oggi cercheremo di approfondire un po' di più, soprattutto più che dal lato pratico, no, di che cosa contengono queste norme, al quale comunque accenneremo, dal lato proprio dell'analisi, di capire quanto queste norme avranno veramente un impatto sul mondo del lavoro autonomo. Parleremo parecchio di industria nella giornata di oggi, perché è stato presentato il 91esimo rapporto di Prometeia Intesa San Paolo, dal quale emergono dei segnali positivi in realtà, perché si parla di un manifatturiero italiano che chiuderà il 2017 in accelerazione, un più 1,6%, un export che fa segnare un più 2,4%, dati positivi e prospettive positive soprattutto per la meccanica, in una giornata nella quale in realtà dall'altra parte, e sentiremo qualche audio anche da qua, la Commissione Europea presenta le sue previsioni di primavera e indica l'Italia come la maglia nera d'Europa, il fanalino di coda, usate tutte le frasi fatte che potete immaginare per quanto riguarda la crescita nel continente, soprattutto nell'area euro, sia nel 2017 che nel 2018. Parleremo di industria anche perché oggi il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è presente a Milano, è andato all'ENI e sentiremo delle voci da là, e poi andrà all'inaugurazione della nuova sede della Whirlpool. Parleremo con chi guida la Whirlpool in Italia, per farci raccontare non tanto della visita di Gentiloni quanto della volontà di investire in un quartier generale per tutta l'area del, quantomeno l'area del sud Europa, un quartier generale proprio a Milano. Come si diceva, parleremo di industria, ma parleremo anche di banche, perché oggi è la giornata nella quale dopo il passaggio delle tre bad bank a UbiBanca, UbiBanca ha deciso di presentare quali sono i suoi progetti, e tra i suoi progetti è previsto un taglio ai dipendenti esuberi per 1.500 persone, che è circa un terzo del personale, entro il 2020. È stato assicurato che non si tratta di licenziamenti, quindi presumibilmente ci saranno prepensionamenti, varie forme naturalmente per questi esuberi, però così stanno le cose dopo l'acquisizione delle tre good bank, ossia la parte buona di Carichieti, di Banca Marche e di Banca Etruria, scorporata dalla parte cattiva, quella delle bad bank. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. Oh certo, non vi ho dato l'andamento delle borse, eccolo, FTSE MIB meno 0,47%, FTSE OCR meno 0,45%, Francoforte che cede lo 0,4%, così come Londra perde lo 0,05%, Parigi lo 0,38%, America anche negativa, Dow Jones meno 0,38%, Standard & Poor's 500, lo 0 che cede lo 0,46%. Bene Unicredit, oggi sono stati tra l'altro i conti, così come ci sono stati i conti di Mediobanca, Unicredit più 3,11%, Mediobanca più 1,16%, Leonardo più 1,09%, Eni che guadagna mezzo punto percentuale, in fondo al listino Generali meno 3,6%, Mediaset meno 3,02%, Jux Net-a-Porter che cede il 2,7%, UbiBanca il 2,61%. Petrolio in parziale ripresa, WTI con consegna a giugno più 1,44%, $48 al barile, Brent con consegna a luglio in questo caso più 1,41%, sopra i $50 al barile, a 50,92. Oro in crescita dello 0,2% a $1,220 l'oncia. Abbiamo parlato del mercato americano, o meglio abbiamo accennato come stanno andando gli indici. Si segnala che oggi Snap, la società a cui fa capo la Snapchat, che è questa applicazione di messaggistica molto usata dai cosiddetti millennials, crolla in borsa. I titoli Snapchat perdono il 20% a $18,15 per azione. Sono a pesare sono i conti deludenti, perdite nel primo trimestre per $2,2 miliardi. Del resto qua Snapchat è arrivata sul mercato, ha preso una bella fetta di mercato, dopodiché ha deciso di quotarsi in borsa, dopodiché i grandi player del settore dei social network hanno deciso di intervenire introducendo delle innovazioni. Instagram con le sue storie, così come Facebook stessa ha introdotto delle storie, e non solo quello naturalmente. Vedremo come andranno le cose. Sempre dagli Stati Uniti. Rileva Bloomberg che i 10 manager più ricchi degli Stati Uniti si sono messi in tasca nel 2016 1,14 miliardi. 10 manager, 1,14 miliardi. Qualcosa come 12.000 euro l'ora, calcolando anche notturni e festivi. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, in onda anche su RDS, Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Secondo le rilevazioni di Bloomberg, i 10 amministratori delegati più pagati delle multinazionali americane hanno guadagnato nel 2016 un totale accumulato di $1,16 miliardi. Sono più o meno $116 milioni l'anno a testa, quindi 9,6 milioni al mese di stipendio per ognuno dei 10 capoazienda delle multinazionali. Secondo i dati OCSE, lo stipendio medio di un lavoratore americano è di $58.000 l'anno, pari a $4.800 al mese lordi. In pratica, con lo stipendio di ciascuno dei 10 top manager americani, 116 milioni, si potrebbe pagare lo stipendio annuo di quasi 2.200 lavoratori, niente male davvero. Ma se già questo disgusta, il confronto con l'Italia è decisamente devastante. 34.000 euro di reddito medio annuo per lavoratore, pari a 2.800 euro al mese. Se teniamo conto che secondo l'Istat i lavoratori occupati in Italia sono circa 23 milioni, con lo stipendio annuo di ognuno dei 10 top manager americani, ricordo sempre 116 milioni, si potrebbero pagare gli stipendi di un anno di oltre 3.200 lavoratori italiani. E con gli 1,16 miliardi di dollari che guadagnano tutti insieme questi 10 manager d'oro, si potrebbe pagare lo stipendio annuo cumulato di 10 lavoratori italiani per i prossimi 3.300 anni. 340.000 euro l'anno per 3.300 anni è infatti 1,12 miliardi di euro. Questi numeri, che ho arrotondato persino per difetto, si commentano da soli. Quando parliamo di disuguaglianza, l'America è lo specchio della realtà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E queste sono alcune delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Veniamo all'Europa, dove la Corte Europea, o meglio, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, nella causa intentata a Uber da un'associazione di taxi spagnola, ha detto, questa non è una sentenza, ma è l'opinione dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che Uber potrebbe essere obbligata a possedere le licenze richieste dalle legislazioni nazionali per i taxi, perché non beneficia del principio di libera circolazione dei servizi, che è garantito dall'Unione Europea per i cosiddetti servizi della società dell'informazione. Cioè, in qualche modo, dice l'avvocato della Corte Europea, Uber è un'azienda di trasporti, non è un'azienda digitale, e quindi deve essere sottoposta alle regole che riguardano i trasporti e non il mondo digitale. Dalla Francia la notizia l'avete sentita, un'azienda subappaltante di Renault e Peugeot, gli operai hanno minato la fabbrica con bombole di gas all'idea che la fabbrica possa chiudere. Sempre per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda l'Europa invece le previsioni, ci sono queste previsioni che sono negative. Per quanto riguarda l'Italia, si prevede una crescita dello 0,9% nel 2017. Ricordiamo che la previsione dell'esecutivo è di una crescita dell'1,1%, quella del Fondo Monetario dello 0,8%. Quindi si rischia anche quest'anno di non arrivare a quella soglia psicologica. E ci arriveremo più avanti. Oggi intervento intanto di Joseph Stiglitz alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, a margine della cerimonia di conferimento honoris causa del PhD in economia all'economista americano. Dice: l'euro deve cambiare, non è vero che le istituzioni non possono cambiare. In Europa le nazioni già ricche si stanno arricchendo ancora di più, quelle più povere non si stanno sviluppando. E abbiamo anche le dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. In un'intervista al quotidiano La Repubblica dice: in Germania pensiamo da molto tempo che l'unione monetaria vada rafforzata, il problema è noto, abbiamo una politica monetaria comune senza una convergenza adeguata delle politiche economiche e finanziarie. Allora, solo un altro paio di notizie, poi verremo a parlare appunto di autonomi. Innanzitutto, dall'Italia il Tesoro ha collocato oltre 7 miliardi di BTP con tassi in calo. Il BTP a 3 anni è stato venduto interamente a un tasso dello 0,37%, in calo di 10 centesimi di punto. Quello a 7 anni il calo è stato di 4 centesimi di punto. E poi due trentennali con tassi a 3,32% e a 3,38%. Abbiamo anche le parole del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo a un incontro con gli studenti nella sede dell'ENI. Dice l'Italia non deve cedere al cinismo e poi ha parlato anche più concretamente della Russia. Abbiamo avuto a lungo un legame fondamentale che ci interessa ancora e confermiamo con la Russia per il gas. Sentiamo Gentiloni. Abbiamo avuto a lungo un legame fondamentale che ci interessa tuttora. Io personalmente sarò in Russia tra qualche giorno per incontrare il presidente Putin, ma comunque di un legame fortissimo con la Russia e con il gas e le risorse energetiche. Ne confermiamo tutta l'importanza, ma lavoriamo per diversificare e dobbiamo essere consapevoli dell'importanza strategica per il paese di questa diversificazione. Quando io vedo alcune polemiche come quelle che ho visto in Puglia negli ultimi mesi, certo non ne ignoro le ragioni, ci mancherebbe. Il governo deve tener conto anche delle ragioni, diciamo, più locali che possono ingenerarsi quando ci sono delle grandi operazioni, purché si sia consapevoli che la diversificazione degli approvvigionamenti energetici è un interesse della nostra sicurezza nazionale e quindi lo sforzo in quella direzione è uno sforzo di carattere strategico. Allora, del rapporto Intesa San Paolo Prometeia vi abbiamo detto e ci torneremo più avanti dopo le 18. Comunque, appunto, industria manifatturiera italiana in accelerazione con una crescita vista ad un più 1,6%. Anche sulle banche arriveremo tra un attimo. La notizia più rilevante è che nella cosiddetta Good Bank, cioè le tre banche acquisite da UBI Banca, si prevedono tagli per 1500 esuberi entro il 2020 e un taglio di 140 filiali, ma dice l'amministratore delegato non faremo licenziamenti, l'amministratore delegato di UBI Banca. Infine, prima di andare al primo tema di giornata, abbiamo una notizia che ci riguarda, l'avete forse già sentita anche nel giornale radio, Confindustria ha dato il via libera al piano per il Sole 24 Ore, con un sostegno all'aumento di capitale, che prevede il versamento di un importo di 30 milioni di euro nel capitale della società nell'ambito di una manovra finanziaria, della quale ieri vi abbiamo riferito, complessiva di 70 milioni. All'aumento di capitale è stata affiancata la proposta di presidi di governance per assicurare il rispetto degli obiettivi dello stesso piano industriale. Confindustria che continuerà a detenere il controllo del Sole 24 Ore, si legge nel comunicato. Iniziamo dunque e iniziamo dalla questione degli autonomi e della legge varata ieri. Poi ci arriveremo ai temi della crescita e della crescita italiana, però io chiedo all'ascoltatore che ci scrive. Dice, dilla bene la notizia, la crescita è la minore in Europa, è la peggiore economia del continente, nonostante Barisoni e tutta la vostra redazione parli da tempo di grande crescita e positiva. Ma che trasmissione ha sentito, mi scusi? Bah. Non mi sembra proprio che ne abbiamo mai parlato, di grande crescita. Costanzo Ranci, docente di sociologia economica al Politecnico di Milano, autore di un libro sulle partite IVA, edito dal Mulino. Professor Ranci, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, è stato varato ieri questo provvedimento, definitivamente è passato anche al Senato e quindi è legge, è quello che è stato soprannominato il Jobs Act degli autonomi. Aggiorna le regole per 2 milioni di partite IVA e professionisti e quindi tanta gente. Abbiamo concentrato molto l'attenzione in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni anche a livello governativo, si diceva, sul tema dei lavoratori dipendenti, anche per i benefici fiscali, lo dicevamo prima, i famosi 80 euro, e poco si è pensato a tutto questo mondo, che è un mondo molto vasto e in realtà molto composito, anche difficile da inquadrare. Tutele assicurative, allineamento sulla gestione separata INPS per la maternità, contratti garantiti con stop alle clausole professionista cliente che impongono tempi di pagamento oltre i 60 giorni, deducibilità delle spese di formazione. Un giudizio generale, professor Ranci, innanzitutto. Ma il giudizio generale è positivo e siamo, penso, tutti contenti di finalmente avere questa nuova legge, questo nuovo ordinamento che era in gestazione già da parecchio tempo e che recepisce una buona parte delle istanze, delle richieste che le stesse associazioni dei rappresentanti del lavoro autonomo nelle sue diverse componenti ha espresso. La cosa, secondo me, più importante è forse la filosofia generale di questo provvedimento. E io ne segno due di punti importanti. Il primo è: non si fanno più distinzioni tra diversi lavoratori autonomi. Sino adesso in Italia noi abbiamo avuto una chiara distinzione tra i cosiddetti professionisti che appartengono agli ordini professionali, per intenderci l'ordine degli avvocati, degli architetti, degli ingegneri, dei medici, e invece tutta quella ampissima massa di lavoratori autonomi che invece non appartenevano a nessun ordine professionale. Le unioni professionali in Italia sono alcune decine, ma gran parte del lavoro autonomo che è cresciuto negli ultimi 20 anni è cresciuto al di fuori di quelle professioni. Sono quindi lavoratori, spesso anche lavoratori con competenze molto specialistiche, molto specializzate, che però si dovevano muovere dentro quello che è stato chiamato il variegato popolo delle partite IVA, o talvolta anche senza partita IVA, perché c'è anche una quota di lavoro autonomo, quella dei cosiddetti lavoratori di progetto, i quali si scrivono ancora oggi alla gestione separata dell'INPS, ma fuori anche da una, diciamo, un meccanismo, casi, sì, da un meccanismo della partita. Ora, questa legge li mette tutti insieme, non fa più distinzioni, offre un quadro di tutele e alcuni vantaggi fiscali senza più differenziare tra questi e quest'altro, senza differenziare tra partite IVA e lavoratori a progetto, sì. Quindi in qualche modo offrendo un quadro unitario per... E questo è il primo punto, mi diceva, no? Ce n'è un secondo? Ma il secondo è che si capisce che finalmente anche il lavoro professionale, cioè il lavoro svolto non in base a un contratto di lavoro subordinato, ma in base a un contratto di lavoro professionale, un contratto di servizio, diciamo così, è un contratto che è un tipo di lavoro che richiede alcune tutele, non soltanto tutele in relazione al welfare, alle esigenze di welfare, quindi maternità, malattia, che pure sono aspetti trattati in questa legge, ma anche una tutela rispetto a quello che dentro quel contratto può essere previsto che può danneggiare il lavoratore che offre questi servizi. Questo è molto importante per il lavoro autonomo, perché uno dei grandi problemi che negli ultimi anni è emerso in questa categoria di lavoratori, che non, diciamo, opera sempre in un mercato libero in cui, diciamo, il datore di lavoro è, come dire, un cliente più che un datore di lavoro vero e proprio, no? Ecco, e ci sono alcuni problemi che si sono spesso presentati, il cui principale è quello, diciamo, del ritardo o addirittura del mancato pagamento, oppure quello legato alle cosiddette clausole vessatorie, cioè all'introduzione nel contratto di clausole fortemente penalizzanti per il lavoratore. Oggi finalmente si è capito che anche, e questo secondo me sta nel segno del dire che questo provvedimento offre uno statuto, sì. Cioè lo statuto significa riconoscere a questa tipologia di lavoratori un'esigenza, loro esigenza, loro diritto di essere tutelati nello svolgimento della loro attività. Quindi in 30 secondi, professore, perché poi dobbiamo chiudere, oggi abbiamo tantissime cose da raccontare ai nostri ascoltatori, in breve mi sembra di capire che lei promuova, al di là dei singoli punti, per così dire, l'operazione culturale che c'è dietro, cioè l'idea di riconoscere complessivamente che c'è un mondo del lavoro autonomo che si muove in una certa direzione e che ha bisogno di determinate tutele. Poi sui punti, come dire, i correttivi potranno anche arrivare successivamente, no? Però lo snodo, il riconoscimento di questo snodo c'è. Assolutamente c'è, non dobbiamo per questo secondo me stappare troppe bottiglie, perché questa legge avviene in un momento invece molto difficile per i lavoratori autonomi, dato alle condizioni del mercato delle professioni nel nostro paese. Quindi a tanto più abbiamo bisogno di tutele e di garanzie nel momento in cui il mercato del lavoro, il mercato delle professioni invece è fortemente, diciamo così, espone questi lavoratori a forti fragilità sul piano economico e finanziario. La ringrazio. Grazie al professor Costanzo Aranci, docente di sociologia economica al Politecnico di Milano, autore di un libro dedicato alle partite IVA, edito dal Mulino. Ci fermiamo, c'è la pausa per il meteo, ci ritroviamo, poi ci sono i mercati, le banche e se riusciamo entro le 18 parliamo anche del G7 Finanze che si sta svolgendo a Bari con un collegamento con la nostra inviata. Tra poco. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Eccoci di nuovo per andare a vedere i mercati. La chiusura in calo, meno 0,33% il FTSE MIB, meno 0,32% il FTSE All Share, Parigi che cede lo 0,36%, Francoforte 0,36%, Parigi meno 0,32%, l'America è negativa dello 0,41% sul Dow Jones, di mezzo punto percentuale sullo Standard & Poor's 500. Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, dobbiamo stare compatti oggi, quindi vai, innanzitutto riassunto breve di giornata. Ma le borse europee quest'oggi sono andate giù, d'altra parte ricordiamo che stanno ormai su massimi dell'anno e sono andate giù nonostante sia nel bollettino della Banca Centrale Europea sia la stessa Commissione Europea abbiano dato buone indicazioni per l'economia, in particolare la Commissione Europea ha persino rivisto al rialzo le stime di crescita per quest'anno all'1,7%. Detto questo, le borse sono andate male, Piazza Affari ha perso lo 0,33% e il ritmo l'hanno dato ancora una volta le trimestrali. In particolare a Piazza Affari è andata bene Unicredit, più 3,67%, è stato il miglior titolo visto che nei primi tre mesi dell'anno la banca ha vantato un utile più che raddoppiato a 907 milioni di euro. Invece il peggior titolo è stato quello di Generali, che ha perso praticamente il 3%. E in questo caso a deludere è stata proprio la trimestrale, con l'utile calato del 9% a 535 milioni di euro. Poi hanno dato i conti del trimestre anche le UBI, che tuttavia hanno perso il 2,66%, nonostante l'utile sia salito del 59% a 67 milioni di euro. Va detto semmai che anche è andata male anche Yuxe Net-a-Porter, meno 3%, in questo caso. Sì, è un fatto curioso quello, no? Sì. Cioè Elvemage ha presentato la sua piattaforma per la vendita online. Sì, infatti ieri sera la LVMH, il primo colosso al mondo nel settore del lusso, ha detto che a giugno sarà operativa una piattaforma di vendite online di oggetti di lusso, si chiamerà 24 Sèvres, occhieggiando, diciamo, strizzando l'occhio all'indirizzo dove è collocato uno dei più grandi magazzini che fanno capo ovviamente LVMH. Non saranno commercializzati solo i capi di tutto il gruppo LVMH, ma anche gli altri settori, insomma sarà una concorrente della stessa Yuxe Net-a-Porter e la cosa fa paura. Naturalmente, al titolo Yux, che come si diceva, sì, è là con Generali, nel senso Yux c'è del 3,04%, Generali il 2,94%, male oggi anche Unipol, anche qua se non erro la trimestrale, meno 2,74%, anche qua la trimestrale, no? Che non è piaciuta sì, un granché. Sì, la trimestrale, poi oggi va detto che Unipol ha confermato l'indiscrezione riportata nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore di aver acquistato azioni B per tanto da portarsi quasi al 10% del capitale, soglia che se venisse superata dovrebbe avere l'autorizzazione della stessa Banca Italia. Si è portata poco sotto la soglia del 10%, d'altra parte la B per sono due giorni che va male perché la trimestrale in questo caso non è piaciuta e anche oggi c'è dell'1,6%. In calo dell'1,6%. Grazie Leonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buonasera, altri titoli in positivo, Leonardo più 1,99, Mediobanca più 1,27, Eni mezzo punto percentuale di guadagno, Tenaris altrettanto, Moncler lo 0, del 45%, Saipem che guadagna lo 0,25%, Banca Mediolanum lo 0,14% e tutti gli altri titoli sono in negativo. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo e parliamo proprio di banche. Focus Economia. E dunque, veniamo proprio a parlare di banche. Ne accennavamo già prima parlando dell'andamento dei mercati. Siamo in linea con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, speriamo che regga bene perché ti sento malino. Comunque, Sei in movimento. Si è perfezionata ieri la cessione a UBI al prezzo simbolico di un euro delle tre Good Bank, Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria del Lazio e Nuova Cassa e Risparmio di Chieti. Qualche ascoltatore scherzava, dice: se prevedono 1500 esuberi fin dall'inizio, tanto good non sono queste banche. Allora? Beh sì, ci può stare, nel senso che ricordiamo, queste sono le banche salvate a un passo dal fallimento un anno e mezzo fa, poi ribattezzate Good Banks, che però in sostanza sono state ricapitalizzate con 4 miliardi e mezzo, quindi a carico del sistema delle banche sane, quindi tanto buone ne erano, ne sono tuttora, se è vero che UBI le ha pagate un euro e comunque si prepara a una violenta, drastica, chiamiamola come vogliamo, riorganizzazione, visto che ad oggi tuttora hanno più costi che ricavi e con questi numeri sì, non si va molto lontano. Anche perché poi là lo raccontiamo sempre, no? Quando le banche entrano in una fase difficile, poi la gente inizia anche a ritirare i depositi oppure a non aprire più conti presso quelle banche, quindi anche l'operatività diventa complessa, cioè l'obiettivo adesso è ripartire. Assolutamente, la fiducia è sulla base del business delle banche. Ne sanno qualcosa quelle banche lì, così come l'ex Popolari Venete, Montepaschi, eccetera, eccetera. E lo spirito dell'operazione che ha fatto UBI è proprio questo, cioè allargare la rete, pur al netto di molte chiusure. Si parlava appunto di 1500 esuberi, che però non verranno gestiti con licenziamenti, quindi saranno esodi volontari, ha detto oggi l'amministratore delegato Massia. Quindi incorporare la rete, pur dimagrita, di queste banche, per allargare appunto la base di produzione, diciamo così, del gruppo UBI, che comunque in ogni caso dovrebbe aumentare la propria quota di mercato dell'1%, che comunque, visti questi tempi, non è pochissimo. Ascolta Marco, qua si parla di 1500 esuberi entro il 2020, da quel che ho capito però non si tratta di licenziamenti, cioè probabilmente verranno trovate delle formule diverse. Sì, è così. Prima di chiudere l'operazione con UBI, le tre banche avevano raggiunto degli accordi con i sindacati per una prima tranche di esuberi, se ne aggiungerà un'altra. Come dicevamo stamattina, aggiornando il suo piano industriale, UBI ha parlato di 200 milioni di risparmi che intende fare su quelle banche, sono tantissimi soldi, e in buona parte dei quali conta di ottenere con questi 1500 esuberi. Nel pomeriggio, come accennavo, l'amministratore delegato ha spiegato che non verrà licenziato nessuno. UBI ha una tradizione di buoni rapporti con i sindacati, quindi c'è da credergli. È chiaro che comprare una banca e subito spargere il terrore nella rete non è forse una scelta particolarmente saggia per i motivi che dicevi tu prima. Insomma, chi rimane deve essere motivato a far bene. Naturalmente, sì. I nuovi tagli appunto sono 500 di questi 1569 esuberi, in realtà 500 sono stati già oggetto di accordi sindacali nelle tre banche, ha ricordato Massia, quindi in realtà si tratta di 1000 in pratica, e appunto ha detto che non verranno fatti licenziamenti e poi aumento di capitale il prima possibile per l'operazione di acquisizione di queste tre banche. Allora io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore anche per questo punto. So già, c'è qualcuno che è partito, dato che parliamo di Banca Etruria, a scherzare su Maria Elena Boschi e su tutte le vicende che conosciamo, le cose che ha scritto Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro, nel quale si parla di un interessamento dell'allora ministra perché Unicredit prendesse in mano il dossier di Banca Etruria. Insomma, qua parliamo dell'altro pezzo di di Banca Etruria, diciamo la parte per così dire buona di Banca Etruria, tanto poi comunque di quella vicenda di Unicredit alla fine non se n'è fatto nulla, non abbiamo parlato lungamente nelle ore scorse, direi che per oggi almeno per il momento evitiamocela, passiamo invece a Bari a parlare del G7 delle finanze che si apre oggi e si apre con un incontro importante. Ed eccoci dunque, eccoci. Chissà se anche il sistema bancario entrerà nei confronti di queste ore del G7 finanziario, forse non proprio nell'incontro che si sta svolgendo in queste ore, che è quello tra il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan e il suo omologo americano. Abbiamo là la nostra inviata Teresa Trillò a Bari, appunto, sì, per il G7 delle finanze. Ciao Teresa, buonasera. Ciao Simone, buonasera. Allora, di fatto l'appuntamento tra Padoan e Mnuchin è l'appuntamento di apertura di questo G7, no? Sì, ci sono in realtà il G7 vero e proprio si aprirà domani, oggi ci sono gli incontri bilaterali e quindi si è iniziato, il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha incontrato il collega americano Steven Mnuchin e si è discusso in questa faccia a faccia che è terminato da pochi minuti dei temi del G7 e delle relative posizioni su uguaglianza e crescita, cyber security, costruzione internazionale. Si è affrontato anche il tema delle banche perché Padoan ha fatto una panoramica sullo stato di salute delle nostre banche e ha detto che i crediti deteriorati in pancia alle banche italiane scenderanno in breve tempo a un livello fisiologico accettabile. Poi, chiuso il faccia a faccia con Mnuchin, Padoan ha in programma anche un incontro con il commissario europeo Pier Moscovici, che è arrivato qui a Bari. Che forse in questo momento, poi Teresa più avanti andremo a sentire anche la voce dello stesso Moscovici, perché oggi sono state presentate le previsioni della Commissione europea, forse in questo momento può essere considerato quello un po' più strategico, insomma, no? L'omologo americano si parla perché si deve parlare, perché è giusto parlarne, è giusto capire cosa succede negli Stati Uniti, ma in questo momento immagino che il focus del ministro dell'economia sia sull'Europa, no? Sì, sull'Europa, sì, con Pier Moscovici si parlerà anche dell'Europa. E comunque fonti MES fanno sapere che le previsioni fatte dalla Commissione europea sulla crescita dello 0,9% è molto vicina alle stime fatte dal Ministero dell'Economia e in via 20 settembre sono fiduciosi perché dicono che le previsioni sulla crescita potranno migliorare anche nel 2017, anche perché in tutti questi anni le previsioni fatte dal Ministero dell'Economia italiano si sono rivelate sempre quelle più esatte rispetto agli altri previsori, quindi sono sostanzialmente in linea le previsioni fatte a Bruxelles. Sì, lo ricordavamo prima, Teresa, un più 1,1% la previsione del governo italiano, se non erro, contro lo 0, il più 0,9% per il 2017, 0,9, no? Esatto, previsto a Bruxelles, e il Fondo Monetario Internazionale prevede leggermente meno, un più 0,8%. Dunque, grazie anche a Teresa Trillò in diretta da Bari per il G7 delle finanze. Claudio da Torino ci chiede: questi incontri internazionali sono costosissimi, perché non fanno delle videoconferenze? Boh, ditemi voi se è più efficace una videoconferenza, una riunione dal vivo, soprattutto a questi livelli. Capisco che siano costosi, però evidentemente speriamo che servano a qualcosa. Ci fermiamo, andiamo a sentire il GR, ci ritroviamo subito dopo e, come si diceva, ampio spazio all'industria italiana a partire dal rapporto Prometeia Intesa San Paolo. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo alle 18:08, seconda parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. È giusto per chiarire che ce lo scrive via sms, ma qua guardate che nessuno ha difeso la Boschi. Ho semplicemente detto che del tema Boschi, Etruria, De Bortoli che scrive che avrebbe fatto pressioni o ci sarebbe stato un interessamento perché Unicredit comprasse Etruria, abbiamo parlato ampiamente. Oggi per il momento chiudiamola qua, aspettiamo se la ex ministro e attuale sottosegretario di Stato deciderà di querelare Ferruccio De Bortoli, si vedrà in giudizio come andranno le cose. De Bortoli dal suo lato dice io ho le mie fonti mi dicono questo, vedremo come andrà a finire, punto e basta, non è che qua si difende qualcuno. Di certo, se il fatto è avvenuto, è un conflitto di interesse abbastanza palese, visto che il padre era vicepresidente della banca. Poi si vedrà in un eventuale giudizio, perché poi vedremo se la Boschi querelerà, e quello già potrebbe essere indicativo. Dunque, le previsioni della Commissione Europea per quanto riguarda l'Italia, previsioni che ci vedono, come si diceva, fanalino di coda, tra gli ultimi posti in Europa, anzi all'ultimo posto per essere esatti, come crescita per il 2017, più 0,9% contro il più 1,1% previsto dall'esecutivo, con un'eurozona che complessivamente cresce dell'1,7%, un calo della disoccupazione previsto per la zona euro al 9,4% nel 2017, all'8,9% nel 2018, e quindi in netto calo. PIL francese è stabile, più 1,4% nel 2017 e più 1,7% nel 2018, in linea con le previsioni di febbraio. Che cosa pesa sul nostro paese? Dice Moscovici, l'incertezza politica e la questione delle banche. Sentiamolo. Dans une situation économique qui n'est pas simple, notre relation avec le gouvernement italien est tout à fait positive. Considerando la situazione economica tutt'altro che semplice, posso dire che i nostri rapporti col governo italiano sono positivi. Insieme cerchiamo soluzioni a tutti i singoli problemi sul tappeto. Incertezza politica cosa significa? Intanto non è un giudizio che noi diamo sulla politica italiana. Non spetta a noi dire se e quando ci devono essere elezioni anticipate o elezioni a fine legislatura. Lo abbiamo detto per tutti, per il Regno Unito, per la Francia, i Paesi Bassi. Quando ci sono delle elezioni, inevitabilmente rappresentano un fattore che ha un impatto sugli operatori e sui soggetti economici. Quindi spetta alle autorità italiane decidere quando fare cosa. Quello che posso dire io è che dopo la conferenza stampa partirò per Bari, andrò alla riunione del G7. Avrò veramente il piacere di incontrare un eccellente ministro delle finanze che compie tutti gli sforzi necessari perché l'Italia possa presentarsi agli impegni europei. Sto parlando di Piercarlo Padoan, col quale abbiamo un rapporto di lavoro che non è semplice, visto le difficoltà da gestire, ma è sicuramente un rapporto positivo. Qui n'est pas simple compte tenu des difficultés que nous avons à gérer, mais qui est extrêmement positive. Come avete sentito poco fa anche da Teresa Trillò, nostra inviata a Bari, proprio in questi minuti si stanno incontrando Moscovici e Padoan. Da Moscovici anche un ok alla manovra, quella con soprattutto la parte, sottolinea la parte delle misure anti-evasione. La Commissione ha incluso quasi completamente l'impatto delle misure fiscali, che abbiamo valutato nello 0,19% del PIL. E si felicita la Commissione che la maggior parte delle misure riguardino appunto la lotta all'evasione fiscale, dice Moscovici. Dunque, come si diceva, Italia maglia nera per la crescita 2017-2018, secondo la Commissione Europea. Segnali invece incoraggianti arrivano da un rapporto, quello sull'industria italiana tra integrazione europea e filiere globali, il 91esimo rapporto Intesa San Paolo e Prometeia sui settori industriali, del quale parliamo adesso. E a chi polemizzava su questi G7 finanziari, G7 in genere, questi appuntamenti così costosi, ma sono solamente costosi, ci fa notare un ascoltatore via WhatsApp. Stamattina la signora Lagarde passeggiava con il suo seguito per le vie di Bari Vecchia, questa sera scena e fuochi artificiali, poi in gita a Matera. Parliamoci chiaro, questi appuntamenti sono anche degli elementi attrattivi, anche semplicemente per il turismo. Gregorio De Felice, responsabile dell'ufficio studi di Intesa San Paolo, buonasera, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a tutti. Allora, in questo rapporto, come si diceva, i segnali che voi cogliete sono dei segnali sostanzialmente positivi, perché vedete una manifattura italiana che chiude un 2017 in accelerazione, un più 1,6%. E mi sembra di aver capito, De Felice, che questi segnali li cogliete un po' da tutti i settori, no? Sì, principalmente dal settore dell'auto, dalla farmaceutica, largo consumo, elettrotecnica, metallurgia, e poi c'è un ritorno importante. Un settore come quello della meccanica, che aveva sofferto abbastanza negli scorsi anni, è visto in ripresa già nel primo trimestre di quest'anno per via anche degli incentivi di Industria 4.0, sta andando meglio ed è previsto sopra la media per quanto riguarda l'intero biennio 2017-2018. È una fase di consolidamento, lieve accelerazione del ciclo economico italiano, e una crescita, certamente come è stato detto, non soddisfacente per la nostra economia, comunque è in lieve miglioramento rispetto all'anno scorso. Quindi lieve miglioramento rispetto all'anno scorso. Questo segnale che ci dice mi sembra molto importante, perché noi, da tutti noi, soprattutto i consumatori, no? Tendono, quando pensano alla produzione italiana, tendono a pensare soprattutto a quello che li riguarda più direttamente. Poi c'è tutta una meccanica, il mondo della meccanica italiana, che è un mondo molto importante, che ha rappresentato e che rappresenta tuttora un pezzo importantissimo delle nostre esportazioni, che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. E là, appunto, come ci diceva, il segnale è un segnale positivo. Sì, un segnale positivo. Una grande differenza tra quest'anno e l'anno scorso è che abbiamo una dinamica della domanda interna meno vivace, quindi i consumi cresceranno, ma cresceranno un po' meno dello scorso anno, anche per via dell'inflazione che sta erodendo potere d'acquisto per le famiglie italiane, a fronte di un andamento dei salari, dei redditi, degli stipendi che è sostanzialmente costante. A livello invece internazionale, il commercio estero è in ripresa, c'è una previsione di miglioramento della crescita mondiale dal 3% del 2016 al 3,4% per quest'anno, e gli esportatori italiani hanno una posizione di rilievo, sono competitivi sia in Europa che nel resto del mondo. Quindi per le esportazioni la crescita prevista per quest'anno è intorno al 3%, non è il dato storico più alto che abbiamo mai avuto, ma è più alto dell'anno scorso. L'impressione, De Felice, è che, un po' come testimoniano anche le previsioni della Commissione europea, ma se vogliamo come testimoniano anche un po' le previsioni del governo, questo più 1,1% a fronte di altri livelli di crescita previsti nell'eurozona, è che comunque questo paese fatichi ancora molto a tirare fuori la testa completamente, no? Questo è indubbio. Se guardiamo quello che sarà il manifatturiero italiano alla fine di questo orizzonte di previsione nostro, che al 2021 dovremo purtroppo constatare che siamo ancora del 9% sotto il livello della produzione industriale che avevamo prima di questa lunghissima crisi. Quindi stiamo recuperando, ma ahimè troppo lentamente per recuperare sia sul rapporto debito-PIL, sia soprattutto sul dramma sociale della disoccupazione, la totale e quella che ci preoccupa ancora di più, quella giovanile. La ringrazio, grazie a Gregorio De Felice, responsabile dell'ufficio studi di Intesa San Paolo, per essere stato con noi, per averci aggiornato su questo rapporto, che come avete sentito, perché poi qua ogni volta che si dà qualche dato positivo c'è quello che arriva e dice la state tirando a favore del governo, come avete sentito questo rapporto in realtà ha, come si dice con una brutta frase fatta, luci e ombre, nel senso che se da una parte si parla di una manifattura italiana che riprende, dall'altra parte si dice attenzione perché il ritmo della ripresa, seppure c'è, è troppo lento. Traffico e poi andremo a parlare di Eni e di Whirlpool, a tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, allora, ancora pochi minuti prima di chiudere, all'ascoltatore che chiede: peggio della Grecia nelle previsioni della Commissione Europea? Ma certamente, da tenere presente che la Grecia ha attraversato uno sprofondo molto peggiore del nostro, però la Commissione Europea prevede un più 2,1% di crescita nel 2017 e un più 2,5% nel 2018. Non so cosa voglia dire invece l'ascoltatore che dice che la crisi è una truffa delle banche. Io sinceramente a volte leggo delle cose, ci scrivete delle cose che trovo incredibili, ma lo vada a dire a tutte le aziende che hanno dovuto chiudere in questi anni, a tutte le persone che sono finite col sedere per terra. Una truffa delle banche, chissà che vuol dire. Raffaella Calandra, che dovrebbe essere in diretta da San Donato. Raffaella, esatto, Raffaella, Simone, sì, esatto, sono all'interno degli stabilimenti dell'Eni di San Donato. Sì, dove oggi è stato in visita il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Come è andata? È stata la prima volta innanzitutto che un Premier visitasse questi stabilimenti dell'Eni all'interno appunto qui a San Donato Milanese. E da qui Paolo Gentiloni, che poi dopo è stato invece ad inaugurare un nuovo stabilimento Whirlpool, come ricordavi tu prima, a Roffiera, ripercorrendo la storia e la trasformazione diciamo dell'Eni, del cane a sei zampe, ha voluto parlare anche di un'Italia come di un paese che è spinto da un certo cinismo. Sappiamo che i guai non ci mancano, ha detto, un inciso tra una voluto spiegare, forse con riferimento anche agli ultimi dati economici, un paese che invece dovrebbe avere l'orgoglio di rivendicare le sue eccellenze come Eni, parole del Premier. Il Premier ha annunciato che andrà presto in Russia per il gas, con cui abbiamo un rapporto fortissimo, ha voluto ricordare. E nel suo intervento, tra l'altro, Gentiloni, ripercorrendo le trasformazioni del colosso energetico, che in Italia per i prossimi 4 anni conta di spendere altri 21 miliardi per proseguire una profonda trasformazione dei suoi vari settori del business, cifre date dall'amministratore delegato Claudio Descalzi. Gentiloni, dicevamo, ha risposto anche alle proteste pugliesi contro il TAP. Un governo non ignora le ragioni, ma diversificare, ha detto, è interesse per la sicurezza nazionale. Poco fa invece abbiamo parlato anche con l'amministratore delegato Descalzi, che a margine ha risposto ad alcune domande sui vari temi di attualità, a cominciare dalla crisi dell'Alitalia. Nessuno mi ha mai chiesto né mai me lo chiederà, ha risposto a proposito di un possibile interesse nei confronti della compagnia di bandiera, specificando che però l'Alitalia ha sempre pagato e a volte anche in anticipo. Poi tra l'altro Descalzi ha commentato anche la notizia di oggi, la ripetuta richiesta di rinvio a giudizio per lui e gli altri ex vertici dell'Eni nell'inchiesta sulle presunte, la presunta corruzione internazionale in Nigeria, sono detto sono sereno. Hanno poi raccontato diciamo la situazione dell'Eni anche negli incontri con degli studenti che hanno partecipato ad un progetto di scambio scuola-lavoro, e raccontando questi 3 anni come anni di profonda trasformazione anche nei vari settori, con l'utopia di avere, questa è la parola usata anche dal Premier Gentiloni, un mondo a zero carbone e zero povertà. Allora, grazie. Grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra in diretta da San Donato. E prima di chiudere ci spostiamo, rimaniamo in zona in realtà, ci spostiamo a Milano per parlare invece di Whirlpool, perché poi Gentiloni si è spostato anche là, ma non è che qua si sta facendo cronaca del governo, è semplicemente sono fatti che hanno a che fare con l'economia. Via. Allora, che cosa è successo? È successo che la multinazionale statunitense Whirlpool ha inaugurato a Pero, nel distretto dell'Expo di Milano, il suo nuovo quartier generale. Il punto interessante qual è? È che è il quartier generale dal quale verrà coordinata tutta l'area Europa, Middle East e Africa. Verranno gestiti 30 paesi, 15 siti industriali, 24.000 dipendenti. Esther Berrospe Galindo è presidente Whirlpool EMEA, appunto di quest'area. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, mi spiega innanzitutto questo. Una multinazionale come la vostra, basata negli Stati Uniti, può effettuare molte scelte quando decide in quale paese piazzare la sua sede principale per coordinare tutta quest'area. Come mai la scelta dell'Italia? Allora, la storia di Whirlpool in Italia, per capire la storia di Whirlpool in Italia dobbiamo andare indietro a 28 anni. Di fatto, quando Whirlpool è arrivata per la prima volta in Europa, l'ha fatto proprio qui in Italia, in Lombardia, stabilendo il suo quartiere generale in Vienna. Con l'acquisizione di Indesit all'inizio del 2015 abbiamo valutato come consolidare il nostro quartiere generale e abbiamo confermato la scelta Italia. Abbiamo confermato la scelta Italia perché abbiamo una lunga storia in questo paese, perché questo è un paese che si è costruito, una fiducia che si è costruita negli anni, regione per regione, non solo qua in Lombardia, ma in tutte le regioni dove noi abbiamo una presenza sia industriale che commerciale, e un paese dove possiamo trovare grande talento, un grande know-how nel settore dell'elettrodomestico e anche una grande creatività, soprattutto dal punto di vista tecnologico e di design. Per cui abbiamo dovuto Non è un paese che vi spaventa, perché a volte le multinazionali sono anche giustamente spaventate, no? Da un paese piuttosto complicato nella gestione burocratica, nella tassazione, perché no? Allora, non posso negare che comunque ci sono delle difficoltà, soprattutto dal punto di vista burocratico, ma noi comunque abbiamo una lunga esperienza in questo paese. Non per citare magari l'ultima, il nostro Piano Italia, dove abbiamo lavorato molto bene sia con tutte le parti coinvolte, sia i rappresentanti dei nostri lavoratori come l'istituzione, siamo riusciti, direi in tempo record, a trovare delle soluzioni che potrei valutare come win-win sia per l'azienda che per i nostri lavoratori. Per cui sicuramente non è facile, c'è tanta burocrazia, ci sono diverse barriere, ma noi abbiamo avuto sempre un'esperienza molto positiva di continuo dialogo e collaborazione sia, come dico bene, con tutte le parti, incluse le istituzioni. Allora, io la ringrazio, dobbiamo andare a chiudere. Esther Berrospe Galindo, presidente di Whirlpool e me appunto per l'area Europa, Medio Oriente e Africa, per essere stata con noi. Quindi chiudiamo sostanzialmente con una buona notizia, ossia il fatto che nonostante il nostro paese sia estremamente faticoso, come sappiamo, c'è qualcuno che decide di piazzarci il suo quartier generale principale per tutta quest'area, che poi comprende appunto anche il Medio Oriente e l'Africa. Bene così, almeno questo. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione, Roberta Frisani in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia vi tranquillizzo, domani torna Sebastiano Barisoni, Focus Economia, dopo il GR delle 17. Buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.